sorte è un gioco un po' contorto. L'amore è infedeltà, l'amore viene e va, l'amore è il ritratto di un'agonia. L'amore è vanità, l'amore è crudeltà, l'amore è solo un grido di gelosia. L'amore è matto, è come un gatto, è sempre in cerca di un piatto. L'amore è come un ago che punge, in amore vince chi fugge. L'amore è illecito, l'amore è un debito, l'amore è un concetto troppo perfetto. L'amore è inganno, l'amore è un danno, l'amore è il trionfo dell'immaginazione. L'amore è un danno, l'amore è affanno, l'amore è sadico, yeah, yeah. L'amore è fisico, l'amore è clinico, l'amore è cinico, yeah, yeah. L'amore è infedeltà, l'amore viene e va, l'amore è il ritratto di un'agonia. L'amore è vanità, l'amore è crudeltà, l'amore è solo un grido di gelosia.